Riflessioni ed osservazioni di una guaritrice di campagna. Ho scritto queste brevi note, nelle quali vengono descritti sia le tecniche di guarigione, sia i modi per mantenere lo stato di salute, sia alcune delle pratiche che permettono di conseguire le conoscenze necessarie per poter operare con tali tecniche e con tali modi dopo aver fatto per quasi 15 anni la guaritrice. Sia subito ben chiaro che con il termine guaritrice non intendo ciò che di norma si pensa quando si pronuncia questa parola. E del resto, pur avendo io sempre cercato di essere riservata a proposito del mio operare, del mio modo di agire e di giudicare, in molti pensano o hanno pensato che io sia una specie di maga, se non addirittura una pericolosa strega, e che l'avere a che fare con me può essere pericoloso o sconveniente. Tali giudizi in effetti potrebbero non essere del tutto ingiustificati dal punto di vista di persone normali che valutano le cose secondo i criteri che si usano in questi tempi. Quante curiosità, quante dicerie, quanti pettegolezzi ha con ogni probabilità suscitato il mio modo di vivere e di operare. Il fatto che io non mi rechi in chiesa la domenica come le altre timorate donne del paese. Il fatto che io non mi sia mai sposata ed abbia sempre respinto in modo fermo i tentativi di corteggiamento dei giovanotti. Il fatto che mi rechi spesso da sola nei boschi e nei prati e torni con delle erbe che chissà a cosa potrebbero servire. Il fatto che posseggo numerosi libri e volumi, anche scritti in lingue straniere o addirittura in latino, che chissà di cosa parlano. Il fatto che io abbastanza spesso riceva delle persone, soprattutto delle giovani donne, che vengono dai paesi di fuori o addirittura da Pavia o da Milano. Il fatto che io non mi fermi a parlare dei fatti miei, che non dia confidenza quasi a nessuno, che non abbia amici o amiche che sanno tutto di me e che possano raccontare a chi vuole sapere i motivi per i quali mi sono sempre comportata in questi modi così diversi dalla normalità. Certamente qualcuno in paese può affermare che io lo aiutai quando, avendomi incontrato e avendomi richiesto se, sapendo che io mi intendevo di erbe, conoscevo qualche rimedio per questo o per quel malanno, suo o di suoi parenti, gli feci avere dei sacchetti di erbe secche tritate e gli consigliai di berne l'infuso. La voce che io, pur essendo una persona strana e diversa dalle donne normali, conoscessi le erbe e sapessi usarle per curare le malattie che magari non era riuscito a curare il medico, si diffuse anche troppo in paese e nei paesi vicini, e molte persone vennero a chiedermi consigli e ricette, anche se, come mi dissero alcune di esse, il medico, il prete del paese e molti benpensanti non vedevano di buon occhio tale mia attività. In effetti, la mia non è certamente stata una professione, dato che mai nulla ho chiesto né voluto in cambio del mio operare, anche se spesso ho accettato dei regali e per mantenermi ho sempre fatto un altro lavoro del tutto normale. Inoltre, non ho mai accettato di operare su tutte le persone che venivano da me, sia perché con molte di loro non avrei ottenuto nessun risultato, per il motivo che esse erano in qualche modo, per incredulità o per opinioni acquisite, in opposizione con i modi e le formule operative da me praticate, sia perché in molte di loro l'identificazione con lo stato d'essere che permette la manifestazione delle malattie era così totale da impedirmi di poter lavorare, sperando di ottenere qualche risultato. Potrei inoltre affermare che mentre con la gran maggioranza dei miei pazienti ho sempre cercato di ottenere rapidamente la guarigione, curando la malattia e dichiarando i pazienti guariti appena i fenomeni morbosi smettevano di manifestarsi, con pochissimi tra i miei pazienti ho cercato di andare più a fondo, prolungando con essi la mia azione terapeutica, a volte addirittura per anni ed anni, dato che il risultato che mi riproponevo di ottenere era molto più completo e difficile da conseguire di una semplice guarigione da un singolo stato morboso. In questo, peraltro raramente attuato, modo di operare, risiede forse la più grande differenza tra le tecniche da me usate e il modo di operare delle guaritrici che tutti conoscono, dato che, più che curare la singola malattia o i sintomi di essa, ho cercato in questi casi, qualche volta con successo e qualche volta senza riuscirci, di fare in modo che le persone riuscissero a ritrovare o a richiamare in se stesse le forze e le energie necessarie per riuscire a guarirsi da sole e soprattutto per riuscire ad acquisire quello stato di salda e stabile armonia interiore che permettesse loro di non cadere più in quello stato di disordine psichico che è molto spesso la causa occulta dei fenomeni morbosi. In pratica, quindi, gli infusi, gli impiastri, le diete, le applicazioni di essenze o di oli aromatizzati, le saune, i bagni caldi interni ed esterni, le applicazioni di freddo e di calore e le altre pratiche salutari da me usate, avevano in questi casi come scopo, più che la cura della singola malattia, l'ottenimento di uno stato d'essere per cui la malattia aveva ben poche possibilità di manifestarsi, ovvero di fare in modo che nella persona potesse agire, nella sua pienezza, la forza risanatrice della natura. Una volta ottenuti questi risultati, anche se qualche potenziale manifestazione morbosa fosse riuscita ad entrare nella persona che aveva conseguito questo stato d'essere, essa non avrebbe più potuto manifestarsi in modi eccessivamente distruttivi e dolorosi e sarebbe stata rapidamente allontanata. Ma per ottenere ciò è evidente che la persona alla quale si vuol far conseguire tale stato di inattaccabilità alle malattie va seguita per anni e da anni e in certi casi per tutta la vita. Inoltre, come già ho detto, questo lavoro deve essere attuato prescindendo dal lato economico, anche perché la guarigione dalla potenzialità dello stato di malattia si attua anche con tecniche nel corso delle quali vengono fatte intervenire delle energie sottili, che in tempi passati sarebbero state definite sacre o divine, e di certo, per chi crede in queste cose, ciò che è sacro non può essere mercificato, dato che un comportamento di questo genere non potrebbe non essere definito sacrilego e foriero, a mio avviso, di sfortune e di disgrazie. Per questi motivi, il rapporto tra la guaritrice che opera in questi modi e i suoi pazienti è necessariamente molto diverso da quello che di norma si instaura tra i guaritori a pagamento e i loro pazienti, o anche fra i medici che operano secondo criteri scientifici e gli ammalati che ad essi si affidano. Infatti, per ottenere i risultati precedentemente detti, il rapporto di fiducia, di sintonia, di comprensione, di conoscenza ed anche di affetto che si instaura tra la guaritrice e coloro che a lei si affidano è tale che potrebbe avere le caratteristiche di una affettuosissima amicizia, se non addirittura rendersi assai simile al rapporto che si crea tra una madre e i suoi figli. La mia esperienza mi ha insegnato a questo proposito che è molto difficile, se non impossibile, per una guaritrice donna riuscire ad avere rapporti di questo tipo con degli uomini, mentre in genere è più facile averli con delle donne e soprattutto con delle fanciulle non ancora rese sterili alla possibilità di una evoluzione interiore che le renda capaci di affrancarsi e di difendersi da quegli attacchi provenienti dal mondo esterno, che spesso creano gli squilibri psico-emotivi che favoriscono l'insorgenza delle malattie. Infatti, gli uomini che ho conosciuto non sono stati generalmente capaci di porsi nei miei confronti in quel modo che mi avrebbe permesso di lavorare con loro ottenendo dei successi. Forse aveva proprio ragione la mia vecchia maestra quando mi diceva che per questi tipi di cure gli uomini dovrebbero andare dagli uomini e le donne dalle donne. Ciò, a mio avviso, accade soprattutto per il motivo che gli uomini soffrono quasi sempre di un complesso di superiorità nei confronti della donna, a volte evidente, a volte latente o abilmente mascherato. E poi il loro modo di porsi nei confronti della donna è spesso complicato da meccanismi di corteggiamento, ovvero da atteggiamenti di confronto o di contrapposizione che impediscono l'instaurazione di un rapporto avente le caratteristiche necessarie per poter operare per i fini precedentemente esposti. Inoltre, le forze sottili che devono intervenire per esplicare l'azione guaritrice sono in gran parte assimilabili all'amore naturale, ovvero all'amore per la natura in tutte le sue manifestazioni di gioia, di libertà e di bellezza, che fu nei tempi antichi deificato nei culti della Grande Madre, che è il nome che veniva attribuito in un antico contesto religioso femminile a Madre Natura. È evidente che tali forze sono, nella maggior parte dei casi, salvo probabili rare eccezioni, che però personalmente non ho mai conosciuto, del tutto estranee alla natura maschile, per la quale anzi, e in ciò mi riferisco al modo d'essere e di agire degli uomini moderni, la natura è oggetto di sfruttamento, di guadagno e di usufrutto. Come potrebbe essere mai possibile per delle persone che qualche millennio fa sarebbero state indubbiamente, per tali motivi considerate sacrileghe, cercare di ottenere l'azione favorevole e amorosa di energie sottili che si celano dietro alle apparenze di ciò che loro continuano a distruggere e a oltraggiare? Per Per tutti questi motivi, dopo alcuni tentativi e alcune esperienze nel corso delle quali non riuscii mai a ottenere i risultati che mi ero prefissa, non ho più cercato di svolgere la mia attività di cura totale con esponenti del sesso forte, riservando invece le mie attenzioni alle donne, in particolare alle donne giovani, e curando semplicemente la singola malattia negli uomini che chiedevano il mio aiuto. Ciò anche perché, per ottenere lo stato di profondo cambiamento interiore, che è secondo me la vera guarigione e che permette di rendersi quasi inattaccabili dalle malattie, è necessaria una profonda trasformazione, nel corso della quale tutte le certezze e le sicurezze, sulle quali di norma si basa la personalità dell'individuo, vengono azzerate e annichilite. In certi casi, in tempi lunghi e con un'azione progressiva, e in certi casi in tempi corti e con un'azione rapida e violenta. È evidente che un avvenimento di questo genere porta l'individuo a una profonda crisi di nichilismo, dalla quale non sempre è facile uscire, anche perché certe persone sono a volte così attaccate a certe loro certezze e a certi loro modi di essere, da non riuscire a dare un senso a se stessi senza di essi. Ora, mentre tale crisi è in genere pericolosa per una donna che, avendo già vissuto una parte della propria vita, ha acquisito dei modi di comportamento, di giudizio e delle sicurezze alle quali non può rinunciare senza sentirsi privata di ciò in cui si è sempre identificata e in cui ha sempre individuato il proprio io, una giovane donna, ancora alla ricerca del suo modo d'essere e magari non del tutto soddisfatta di se stessa, può più facilmente superare questo momento di trasformazione interiore. Questa, a dire il vero, non è una regola assoluta, dato che mi sono capitati almeno un paio di casi di donne non più giovanissime che sono riuscite a superare benissimo la crisi che si presenta quando si affronta la trasformazione interiore che porta allo stato di imprendibilità da parte delle malattie. Ma si deve dire che tali donne erano molto particolari, infatti esse avevano una visione della società, dei miti e dei valori di oggi e delle stesse concezioni del modo di essere donna, nelle quali credono la quasi totalità delle donne contemporanee, assolutamente pessimista nel senso che a tali miti, a tali concezioni, a tali valori non credevano o non riuscivano a credere in modo profondo. Esse erano quindi già pronte ad abbandonare tutte quelle certezze, tutte quelle pseudoverità, tutte quelle concezioni morali che devono essere abbandonate e che l'agire della guaritrice, che opera al fine di rendere i suoi pazienti quasi imprendibili da parte delle malattie, annichilisce, svuota di valore e dimostra essere non più valide e credibili. Da quanto finora detto, dovrebbe essere evidente che l'acquisizione dello stato di forza e di stabilità interiore, che rende le persone capaci di guarirsi quasi sempre da sole, non può essere assolutamente acquisito senza il necessario aiuto di una guida che prima insegni alla persona a conoscersi e a distinguere ciò che in lei è reale e naturale da ciò che è falso, debole e caduco, ed in un secondo tempo la renda capace di difendersi, essendo diventata più reale, più armonica e più naturale, dagli squilibri e dai disordini psichici ed organici, ed anche ad usare con se stessa, nel migliore dei modi, la forza guaritrice e risanatrice della natura. Ma perché tale forza, che a volte può fare dei veri e propri miracoli, possa agire? È necessario che la persona sia diventata assolutamente naturale, dato che solo in una persona con tali caratteristiche essa agisce nel modo migliore e con tutta la sua miracolosa potenza, mentre nelle persone normali essa agisce ben poco ed anzi, in certi casi, certe malattie possono insorgere proprio per il motivo che la persona non è naturale o si oppone o viola, spesso senza saperlo, l'armonia di madre natura. E diventare una persona naturale, pulendosi e purificandosi da infinite false strutture psichiche e mentali, da modi d'essere innaturali e contronaturali, che però, per il comune pensare, sono del tutto giusti, logici ed auspicabili, non è certo cosa che possa essere fatta da soli, dato che vedere in se stessi, senza un aiuto esterno, le cause della propria cecità interiore e le ragioni della propria innaturalità, non è evidentemente possibile, e certamente è del tutto impossibile anche con l'aiuto di una guida o di una guaritrice, per chi è ben contento di com'è, per chi si identifica totalmente negli innaturali miti dei tempi odierni e per chi non ammette che si possa mettere in discussione la propria personalità. Queste ultime osservazioni potrebbero forse apparire a qualcuno sbagliate, discutibili ed ingiuste, ma per ciò che a suo tempo mi fu insegnato dalla mia vecchia e saggia maestra, per le conferme e le verifiche che ho potuto fare personalmente e che ho potuto osservare nelle persone che hanno accettato di sottoporsi alle trasformazioni interiori, che sarebbe forse più giusto definire rivoluzioni fisiche e psichiche, dato che si tratta quasi sempre di rivoltare completamente il senso dell'io, il modo di rapportarsi con la natura, con le energie invisibili che agiscono nel mondo e con l'ambiente esterno, è certo che chi non si trasforma e non accetta di farsi trasformare, nulla può ottenere. Chi non diventa una persona naturale, così come è naturale l'albero, il fiume, il vento, la pioggia, il cielo e come sono forse naturali certe popolazioni aborigene della foresta amazzonica, non ancora obbligate con la forza alla civiltà moderna e al progresso, non può assolutamente acquisire il potere dell'autoguarigione, né tantomeno pensare di poter chiamare e far agire dentro di sé la forza guaritrice di madre natura. Inoltre, nessuno pensi di poter acquisire tali poteri semplicemente leggendo le presenti note. Solamente l'incontro con una persona esperta in questo genere di cose, ovvero con una maestra per chi è donna e con un maestro per chi è uomo, che non sia ovviamente un'imbrogliona o una venditrice di fumo, potrà essere il primo passo verso una trasformazione di questo tipo. Le conoscenze e le tecniche operative da me descritte mi sono venute, del resto, da un insegnamento ben preciso e durato quasi 7 anni, molto simile, per quanto mi fu detto dalla mia saggia maestra, a quello che ella stessa ricevette dalla sua maestra per molti anni. Probabilmente, di insegnamento in insegnamento, si potrebbe risalire indietro nel tempo fino ad arrivare così indietro nei secoli da ritrovare quelle antiche forme di civiltà nelle quali la naturalità e il rispetto delle leggi di madre natura, ovvero della grande madre, era la norma e nelle quali conseguentemente tutte le forme di sapere e quindi anche la medicina e l'arte di guarire le malattie erano da essa ispirate. Forse una guaritrice che lavora nello stesso modo in cui io lavoro, ovvero che non opera solamente al fine di guarire le persone sul piano materiale ed esteriore, ma che cerca di agire, così come io ho sempre fatto, sul piano sottile ed invisibile che sta all'origine delle manifestazioni di benessere e di malessere, che vengono definite stato di salute e stato di malattia, potrebbe stupirsi per il fatto che io abbia messo per iscritto una gran parte delle mie riflessioni, delle mie osservazioni e delle mie esperienze. Ciò infatti potrebbe apparire una profanazione dell'antico sapere che permette a coloro che lo posseggono di agire sulle cause della malattia e non semplicemente sugli effetti, sia perché in genere è sempre successo che gli insegnamenti di questo tipo fossero impartiti oralmente e praticamente da una maestra ad un'allieva, sia perché certe parti dell'insegnamento e in particolare certi modi di operare da parte della maestra sull'allieva, al fine di trasformarla per acquisire quella sensibilità sottile che è necessaria e indispensabile per il nostro lavoro, potrebbero essere malintesi e giudicati nel peggiore dei modi. Certamente è un fatto del tutto inusuale che venga lasciata una testimonianza scritta sul modo di pensare ed anche qualche accenno sul modo di operare delle guaritrici e sul modo con il quale acquisiscono i poteri di sensibilità sottile. Ma io ritengo che, dato che saranno certamente sempre di meno le guaritrici di questo tipo, e di conseguenza sarà sempre più difficile per le poche che rimarranno poter trasmettere la loro antica sapienza, forse qualche fanciulla incuriosita dalla lettura di questo scritto potrebbe entrare nell'ordine di idee di mettersi alla ricerca di una maestra dalla quale farsi guarire nel senso assoluto che è stato dato precedentemente a questa parola. In altri termini, queste mie brevi note potrebbero essere paragonate a quei messaggi che, secondo certe leggende marinare, a volte potevano essere trovati tra i frangenti racchiusi in una bottiglia, e in certi casi davano le indicazioni per poter raggiungere qualche lontana isola dove poteva essere ritrovato un antico tesoro. In alcuni punti del mio scritto ho forse poi manifestato una certa nostalgia per quei tempi antichissimi in cui tutta l'umanità era naturale e nei quali non erano neanche concepibili tutte quelle violenze e quei sacrilegi contro natura che oggi sono considerati del tutto normali e giustificabili. Contro queste violenze e contro le forze e le correnti di pensiero che tali violenze hanno ispirato, ho polemizzato in diversi punti del mio scritto, anche se, nell'ipotesi di una sempre maggiore snaturazione del mondo, in un contesto forse esso stesso naturale di progressivo e inarrestabile oscuramento a cui dovrà seguire un ritorno alla luce e alla libertà primordiali, tali forze hanno esse stesse un ruolo ben preciso. Ma, in effetti, è necessario capire che fino a quando non si ritorna, ovviamente a livello di pensiero e di modo di sentire individuale, integralmente alla concezione del mondo e della natura che avevano gli uomini e le donne naturali e primordiali, ben poco di ciò che descriverò potrà essere inteso. Per riacquisire tale concezione naturale, è quindi necessario, tra le altre cose, che certe forze, certe correnti di idee, certe forme di pensiero e certe usanze che oggi sono considerate parte integrante e irrinunciabile del modo d'essere moderno, vengano prima considerate del tutto malvagie e negative e poi sradicate dal modo di pensare e di comportarsi dell'individuo. Tale trasformazione non deve rimanere ovviamente un fatto teorico, ma deve essere vissuta in pratica, seppur ovviamente in segreto, dato che un comportamento assolutamente spontaneo e naturale oggi non sarebbe capito, sarebbe di conseguenza mal giudicato e sarebbe anche praticamente inattuabile. Per quanto riguarda poi certe terapie sulla parte sottile della persona, e soprattutto certe tecniche di trasformazione che le maestre usano con le allieve al fine di far loro acquisire dei poteri che di solito non posseggono le persone normali, se non in qualche caso di potenza. Evidentemente a questo proposito non ho potuto e non ho voluto dire la verità, e molto spesso ho parlato per simboli e analogie, dato che sono convinta che la descrizione di tali tecniche di trasformazione sarebbe certamente stato un atto sacrilego e, di conseguenza, avrebbe portato sfortuna sia alla scrittrice, sia forse anche a chi avrebbe potuto un giorno leggere, senza le necessarie qualificazioni, la descrizione di tale tecnica. Dato che il tipo di conoscenza e di sapere a cui accenno in queste brevi note è sempre stato trasmesso da maestra ad allieva in un ambito campagnolo, ho pensato di usare il dialetto al posto della lingua italiana per descrivere le mie tecniche terapeutiche. Naturalmente ciò potrà non piacere a qualche colta e raffinata signora di città che considera volgari e adatti solamente alla gente di basso ceto sociale i dialetti e che è magari abituata a girare con la pelliccia e valutare le persone in base al conto in banca, alle proprietà immobiliari, per i vestiti che portano o per altri stupidi motivi di questo genere. Ma sia subito ben chiaro che questi scritti non sono destinati a quelle come lei, così come ben poco senso avrebbe il fatto che fossero letti dai medici moderni che dagli scienziati, che sicuri ed orgogliosi del loro sapere, che si considerano indiscutibile e incontestabile, sono in realtà tra i fautori della desacralizzazione del regno di madre natura, che anche per colpa loro non viene più sentita come una manifestazione di sacra armonia, della quale gli uomini e le donne nei tempi antichi facevano parte, ma come una semplice manifestazione materiale, senza anima e sacralità, che si può usare e della quale si può abusare senza alcun limite. Ancor meno, ovviamente, questi scritti sono destinati ai preti e a coloro che credono nella moderna religione che da quasi 2000 anni imperversa in Occidente e che considera la donna, quando essa è veramente tale, tentatrice, inferiore, peccatrice e causa prima per via della ridicola e maschilista storia di Eva e di Adamo e del serpente dei mali che affliggono l'umanità. In realtà, invece, la vera donna, ovvero la donna libera da pregiudizi, da sensi di colpa imposti, da sudditanza psicologica nei confronti dell'uomo, sia esso il padre, il marito o il parroco del paese, anche per la sua conformazione fisica e per l'attitudine psichica che da tale conformazione deriva, può acquisire una sintonia quasi completa con l'armonia naturale e di conseguenza sviluppare dentro di sé quei poteri che non solo le permettono di guarire dalla singola malattia, ma la rendono quasi inattaccabile dalle infermità fisiche e psichiche e che potrebbero renderla anche capace di vivere la propria vita in una pienezza e in una completezza tale che la vita di gran parte delle altre persone, se paragonata alla loro, apparirebbe insulsa, vuota e scialba. Ma è molto probabile che un tipo di donna di tale genere, libera, consapevole, indipendente e soprattutto dotata di quei poteri che nell'antichità remota furono appannaggio di donne che vennero definite, anche per questi motivi, streghe, sacerdotesse, maghe, Non sarebbe assolutamente gradito e accettato nella società attuale, ed anche se colei che raggiungesse tali livelli non correrebbe più il rischio di essere condannata a rogo, come poteva accadere fino a un paio di centinaia di anni fa, certamente sarebbe oggetto di maldicenze, incomprensioni, invidie e calunnie. Anche per questo motivo ritengo che l'opera di guarigione totale, ovvero le terapie e le trasformazioni sottili delle quali darò qualche accenno nelle prossime pagine, debbano essere eseguite sia su se stesse sia su altre persone, nella maggiore riservatezza possibile. Del resto, coloro che praticano questo tipo di cose, se veramente sono sulla via che porta ad ottenere dei risultati interiori, sempre meno importanza daranno all'approvazione e al giudizio del prossimo. E sempre di più intuiranno e capiranno la necessità di operare in segreto e solamente con persone affidabili e riservate. Tale modo di agire, del resto, era caratteristico anche dei tempi migliori, nei quali il segreto e la riservatezza non erano necessari al fine di mettersi al riparo da maldicenze o persecuzioni, ma erano connaturali ad operazioni di questo tipo, al punto che si riteneva che senza la pratica dell'assoluto segreto nulla si potesse ottenere, dato che sarebbe mancato l'intervento di quelle energie sottili che si manifestano solamente quando il segreto è assoluto, e senza le quali le pratiche di guarigione sottile e globale, connesse alla naturalizzazione dell'individuo e alla sua sintonizzazione con tali energie, sono del tutto impossibili.